Anch'io sono sempre qui, solo con quest'aria fredda, nuda e silenziosa. Sento intorno a me ma te freddo che si sta fermando e non respira più. Sentirsi sempre